Venerdì 13 dicembre, dal lucernario occupato della Sapienza, una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Ore 18, la tela trema, live painting, Massimo Pasca contro Antonio Pronostico. Ore 19, aperitivo e presentazione Scarceranda 2014, l'agenda contro ogni carcere. Ore 20:30, cena sociale a sostegno di Radio Onda Rossa. A seguire, DJ set The Gadget Stars contro Radio Onda Rossa DJ. Venerdì 13 dicembre, lucernario occupato, Viale delle Scienze numero 1. Se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes.